tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Caso Consip, al vaglio del Parlamento le mozioni contro il governo, maggioranza a rischio, Zanda chiede il rinvio, Grasso lo rifiuta. Da 2014 tagli di spesa per 30 miliardi di euro, secondo il commissario Gutgeld, creano spazio per tagli fiscali, dice il ministro Padoan. Suicida in carcere Marco Prato, accusato dell'omicidio in un festino a Roma di Luca Barani, sono innocente, avrebbe lasciato scritto in un biglietto. Terremoto, interventi e casette in forte ritardo, da rimuovere più del 90% delle macerie e la burocrazia soffoca i professionisti che se ne occupano. Un assessore di Caltagirone, in Sicilia, regione da 60.000 randagi almeno, ripreso mentre abbandona 4 cuccioli, speravo che qualcuno se ne occupasse, dice. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale andiamo in diretta, così come andiamo in diretta dalla pagina Facebook di Radio 24. Se volete potete seguirci anche là e come sempre commentare anche là. In apertura parliamo della vicenda Consip, perché è un momento decisivo, a quanto pare quello di oggi, per la maggioranza e forse anche per il governo. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, ed è così, dibattito parlamentare che prosegue, si arriverà nel pomeriggio al voto delle varie mozioni ed è questa un po' la notizia, perché il PD invece aveva chiesto questa mattina che si rimandasse tutto alla prossima settimana dopo il 27 giugno, quando si sarà ricostituita la catena di comando della Consip. Preso atto del dibattito in aula, l'ordine del giorno prevede la discussione sulle mozioni, ha ricordato il presidente del Senato Grasso, bocciando di fatto la richiesta avanzata dal capogruppo del Partito Democratico Zanda. Sempre Grasso ha quindi dichiarato inammissibile la parte della mozione presentata da MDP articolo 1, in cui si parla della necessità per Luca Lotti di rimettere le deleghe da ministro. Non è di secondo piano, Simone, lo ricordavi, il voto oggi delle varie mozioni. Il PD da solo non è autonomo nei numeri e soprattutto, qualora MDP non lo appoggiasse, sarà determinante il voto dei verdiniani, a rischio la stessa sopravvivenza allora del governo. La seduta di Palazzo Madama si è aperta con la lettura della missiva inviata dal ministro dell'economia Padoan, con la quale si informa il Parlamento che a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri Consip si intende dimissionario l'intero consiglio di amministrazione. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta, vedremo come evolveranno le votazioni sulle mozioni. A proposito di politica, a margine dell'assemblea di Confartigianato, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda sembra così smentire le voci che lo vogliono in contrasto col governo del quale tra l'altro ha fatto parte, ossia il governo Renzi. Sentiamo le parole di Calenda. Suggerirei di smetterla di leggere ogni dichiarazione che uno fa di politica economica come una critica al governo, a un governo di cui io ho fatto parte, di cui rivendico l'azione, che considero il governo, parlo di quello Renzi, più vicino al mondo delle imprese che ci sia stato in Italia. Non è questo il punto è una linea di politica economica che io ho sempre ritenuto debba lavorare sulla produttività, sulle imprese, perché le imprese possano creare lavoro, che è il grande problema italiano. Ma non mi ritrovo assolutamente nelle ricostruzioni che vedono questa linea come una linea diversa da quella portata avanti dal governo Renzi, di cui, ripeto, ho fatto parte, io sono molto contento di aver fatto parte. Così dunque Calenda a cercare di smentire alcune voci, appunto, che lo vorrebbero in contrasto con Renzi. A proposito di pensioni invece parla il ministro del lavoro Giuliano Poletti, a chi chiede possibili variazioni sul tema dell'età pensionabile in connessione con l'aspettativa di vita. Dopo alcune indiscrezioni di stampa il ministro del lavoro risponde: non abbiamo allo studio alcun provvedimento di nessun tipo. Nel frattempo, a proposito di politica economica, si parla di spending review. Questa mattina è stato presentato il rapporto del commissario Joram Gutgeld, nel quale si parla di 30 miliardi di euro di tagli di spesa, di risparmi a partire dal 2014. Ci colleghiamo con Marco Rogari del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, che cosa ha detto Gutgeld ora, oltre ad indicare questa cifra di 30 miliardi? Beh, ha fatto una relazione su quello che ha fatto il commissario, appunto, il governo dal 2014, quando fu varato il decreto IRPEF, quello sugli 80 euro, fino ad oggi. anzitutto ha dato i dati, e i 30 miliardi va detto che non sono il risparmio, la riduzione di spesa realizzata dal 2014, ma quella realizzata soltanto nel 2017, perché si tratta di una riduzione di spesa strutturale, quindi anno per anno l'ammontare della spesa ridotta è diverso dall'anno precedente e successivo. Nel 2018 si attende una riduzione di spesa di 31 miliardi e mezzo. Perché 30 miliardi dunque, Marco, è la cifra a regime? No, è un intervento strutturale che con le misure adottate per il 2017 si sono fatti 30 miliardi e che non sono da accumulare con i risparmi realizzati negli anni precedenti. È, come posso dire, la spesa ridotta nel solo 2017 grazie alle misure che sono state via via adottate con i decreti legge e con le leggi di bilancio. Va detto però che non si tratta di un risparmio effettivo, perché queste risorse sono state poi, come posso dire, utilizzate per coprire altri interventi di riduzione della pressione fiscale e ad esempio per quanto riguarda le misure sul lavoro, quindi sono state in gran parte utilizzate per altri interventi adottati dai governi che si sono succeduti, Renzi e adesso Gentiloni. Io ti ringrazio intanto per questo aggiornamento. A Marco Rogali del Sole 24 Ore, molti altri dettagli li trovate ovviamente sul sito del Sole 24 Ore, oltre che naturalmente supponiamo che ne parlerà oggi Focus Economia. Veniamo all'estero e alle tensioni fra Stati Uniti e Russia sui cieli della Siria, ne abbiamo parlato lungamente ieri e anche in GR24, ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per avere una sua valutazione. Alberto, buongiorno innanzitutto su quello che sta succedendo sullo scenario medio orientale, come si chiama. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Beh, sono in corso quattro guerre. Una contro l'ISIS, che viene combattuta sia dalle forze della coalizione guidata dagli americani che dalla Russia con i suoi alleati, l'Iran e la Siria. Un'altra guerra è l'Iraq. Un'altra guerra è quella contro il regime di Bashar condotta dagli Stati Uniti, una guerra non dichiarata, ma nell'ultimo mese per quattro volte gli americani hanno bombardato le truppe di Assad, oltre che gli Hezbollah libanesi alleati di Damasco. Poi c'è la terza guerra, quella che viene condotta dagli Stati Uniti contro l'influenza dell'Iran nella regione, ed è una guerra appoggiata sia dai sauditi che dagli israeliani. E poi una guerra indiretta che è appunto quella contro la Russia, perché gli americani stanno colpendo degli alleati di Mosca, e questo abbattimento del jet è un pesante avvertimento su quello che potrebbe accadere, perché un incidente con la Russia sui cieli della Siria potrebbe avere davvero conseguenze imprevedibili. Insomma, gli americani stanno combattendo alcune guerre non dichiarate, qualcuno dice che sono le migliori, perché anche se le perdi non se ne accorge nessuno. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri come sempre per la tua sintesi e la tua chiarezza. Restiamo all'estero perché lo studente americano rilasciato dalla Corea del Nord nei giorni scorsi, in coma con un trauma al cervello, è morto, lo ha reso noto la famiglia in un comunicato diffuso dall'ospedale dell'Ohio dove era ricoverato. One more time. Ready? All right. Ready to throw it at me? Il conto alla rovescia in cui invita gli amici a tirare le palle di neve verso la telecamera è di Otto Warmbier nell'ultimo video realizzato mentre gioca con la neve in Nord Corea insieme ad altri turisti. Ed è anche l'ultimo in cui si vede in buone condizioni. Era stato arrestato nel 2016 per aver tentato di rubare un cartellone di propaganda, condannato a 15 anni di lavori forzati per attività antistatale, e lo aveva confessato tra le lacrime chiedendo scusa anche in conferenza stampa. Act to save me. Alla fine è morto dopo meno di una settimana dal suo rientro dagli Stati Uniti. Lo studente americano dell'Università della Virginia di 22 anni era stato rilasciato infatti in stato di coma per danni cerebrali in seguito ad un arresto cardiopolmonare. Dopo 17 mesi le autorità nordcoreane lo hanno spiegato col botulismo e l'assunzione di sonniferi. Nessuna prova per i medici americani, sconosciuta la causa del trauma, ma si sospettano tecniche di tortura che la famiglia ha ripetutamente denunciato. Silenzio di Pyongyang, condoglianze del presidente Trump, che promette è un regime brutale e ce ne occuperemo. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Si è tolto la vita Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca Varani, lo ricorderete, durante un festino a Roma. Sentiamo. Si è suicidato questa notte in cella nel carcere di Velletri, dove era detenuto Marco Prato, il giovane di 31 anni, accusato insieme a Manuel Foffo dell'omicidio di Luca Varani, seviziato e ucciso in un appartamento a Roma nel marzo del 2016 durante un festino a base di sesso e droga. Prato è stato trovato morto in cella durante il giro di ispezione. Aveva un sacchetto di plastica in testa. Il compagno con cui divideva la stessa cella non si è accorto di nulla. Ora verrà effettuata l'autopsia. Vicino al corpo di Prato è stato trovato un biglietto sul quale pare abbia scritto di volerla fare finita perché non reggeva più il peso della vicenda. Già nella stanza d'albergo in cui Prato si rifugiò subito dopo l'omicidio di Luca Varani, vennero trovati dei biglietti indirizzati ai suoi genitori che fecero pensare avesse intenzione di suicidarsi, ma allora non accadde. Marco Prato, dopo l'arresto nel 2016, venne rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, nel reparto destinato a chi commette reati sessuali. Solo da pochi mesi era stato spostato nel carcere di Velletri. Il 21 febbraio scorso, al termine del rito abbreviato, Manuel Foffo, reo confesso, è stato condannato a 30 anni. Per Marco Prato il GUP aveva disposto invece rinvio a giudizio e quindi un processo con il rito ordinario che era cominciato ad aprile davanti ai giudici della prima corte d'appello di Roma. Domani era atteso per l'udienza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è grande attesa oggi per la sentenza della Cassazione sulla strage di Piazza della Loggia. A 43 anni dai fatti. Daniele Biacchessi. La Corte di Cassazione comunicherà nelle prossime ore la sentenza con cui si dovrebbe chiudere l'eterno e controverso iter giudiziario per i responsabili della strage di Piazza della Loggia a Brescia, 28 maggio 1974, 8 morti, 100 feriti. Si tratta del secondo processo in Cassazione della quinta istruttoria. L'inchiesta mosse i suoi primi passi nel 1993. Sono stati 24 anni di processi che hanno assolto gli imputati in primo e secondo grado, che hanno emesso verdetti in parte favorevoli all'accusa pubblica e privata in Cassazione e completamente positivi per accusa e parti civili in secondo grado. Due condanne all'ergastolo nei confronti di Carlo Maria Maggi, plenipotenziario di Ordine Nuovo nel Veneto, e Maurizio Tramonte, uomo in bilico tra servizi segreti ed eversione nera. Entrambi cercheranno di evitare il carcere a vita. Ma già si può intravedere il segnale di un'evidente sconfitta della giustizia che si trova a giudicare fatti avvenuti 43 anni fa in piena guerra fredda con un paese lacerato dalla crisi finanziaria e dal terrorismo. Già 43 anni fa, mezzo secolo, in cui però 8 morti e 100 feriti chiedono ancora una verità e una giustizia giusta. Così dunque il nostro Daniele Biacchessi nella sua analisi del martedì. Tasso di ammissione del 96,3% e poco meno di 500.000 di studenti chiamati domani alla prima prova della maturità, è la prima scritta, quella uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Come da tradizione, Radio 24 torna con la sua notte prima degli esami a partire dalle 21 di questa sera con il nostro Federico Taddia che è in linea con noi. Federico, ciao, eccoci. Eccoci qua, ciao, ciao. Ti do subito un altro dato statistico. Vai, vai. 100% dei ragazzi a cui ho chiesto cosa ci sarà secondo te come tema d'attualità, la risposta è Brexit. Quindi okay. Se la parola chiave di questa maturità è Brexit, sì. Vedremo se sarà questo. Intanto dobbiamo segnalare necessariamente, Federico, che la prima prova del Ministero dell'Istruzione non è stata un granché, perché se si andava ieri sul sito del Ministero dell'Istruzione c'era scritto tra CIE con la I in mezzo, poi hanno corretto, hanno dato come al solito la colpa a un fornitore esterno in corso di identificazione. Senti, stasera come procederete? Come sempre dalle 21 alle 24 in diretta, con me ci sarà Marianne Mirage in studio, quindi anche musica dal vivo, e poi tanti insomma personaggi amati dal mondo dei ragazzi che racconteranno la loro maturità, Ermal Meta, Levante, Benji e Fede, Frank Matano, e poi i maturandi che invece ci racconteranno queste ore prima dell'esame, e i maturandi di ieri, cioè gli ascoltatori che potranno raccontare il loro ricordo, insomma un mix di emozioni, di questo Rito di passaggio, lo è ancora per tanti, altrettanti invece mi dicono che è una faticaccia inutile oramai, però è comunque una data che segna. Beh, che ti segna, che ti segna, segna inevitabilmente, sì. Segna tutti noi. Allora Federico, ti risentiamo dunque a partire dalle 21, gli ascoltatori appunto possono poi chiamare in diretta, raccontare la loro, magari anche qualche genitore ansioso, vi raccomando su questo anche di riascoltare, di scaricarvi Cuore e Denari di oggi, nel quale parecchio si è parlato appunto di maturità. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come su quella di Radio 24, oltre che naturalmente su Radio 24 regolarmente in radio. E iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo dal terremoto. Parleremo del terremoto perché se ne occupano oggi due grandi giornali, se ne occupano La Repubblica e Il Corriere della Sera, sottolineando quello che è un elemento fondamentale, ossia che le cose molto semplicemente non stanno funzionando dal punto di vista della ricostruzione. Il 92% delle macerie ancora per strada e una burocrazia che sta soffocando i tentativi di ricostruzione, di rimettere in piedi tutto. Traffico, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della vicenda Consip delle mozioni in Parlamento, della spending review, della morte in carcere di Marco Prato. Siamo andati all'estero per parlare delle tensioni tra Russia e Stati Uniti e ci siamo occupati anche della morte del ragazzo che era stato detenuto in Corea del Nord e che pochi giorni fa è stato riportato in coma negli Stati Uniti. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e voglio rassicurare l'ascoltatore che già ci scrive via WhatsApp al 349-238-6666 che naturalmente ieri l'abbiamo saltata, ma oggi torniamo sulle tracce di Igor. E voglio anche rassicurare Igor il Serbo, l'assassino del barista di Budrio e della Guardia Ecologica Verri, e voglio rassicurare anche gli ascoltatori che ci dicono basta con questa storia di Igor, perché ne parlate? Ce n'è uno in particolare che ci scrive continuamente. Ne parliamo perché è chiaramente un fallimento del sistema di ricerca di un latitante e sono stati 60 giorni in una stessa zona del paese a cercare questa persona e questa persona è completamente svanita. Certo, è già successo in passato, è successo per esempio con i mafiosi sul nostro territorio molto spesso e magari erano in un bunker nascosto, però insomma ci sembra che valga la pena parlarne e restare su questa storia. Iniziamo però a parlare di terremoto col nostro giro per l'Italia. Vi voglio dire che insomma in un certo senso mi sento coinvolto emotivamente da tutto questo quando parliamo di terremoto, non solo perché ce ne siamo occupati spesso da questi microfoni, ma perché qualche ascoltatore, il più fedele, qualcuno un po' più fedele lo sa, insomma le origini sono umbre, sono di Bevagna in provincia di Perugia, e quindi quando si tratta di questo tema, come dire, il cuore un pochino batte. Qua c'è la questione che viene affrontata, come si diceva prima, da due grandi giornali, dal Corriere della Sera e dalla Repubblica. Già la settimana scorsa il Giorno, il quotidiano nazionale, c'era tornato raccontando di queste tonnellate, migliaia di tonnellate di macerie che sono ancora per le strade. Il grande tema resta quello, ci sembra di capire, della burocrazia. E la domanda di fondo, e quella che mi sto facendo anch'io, è questa. Ma è possibile che con tutti i terremoti che abbiamo avuto, con ciascuno ovviamente con le sue caratteristiche territoriali, per carità, non si sia però identificato un sistema specifico che scatta nel momento nel quale c'è il terremoto e deve arrivare una ricostruzione? Ma ogni volta che c'è un terremoto, a seconda del governo che c'è, si cambia il sistema, si modificano le regole, si fa sì che queste regole si sovrappongano a regole precedenti. Succede per esempio nei casi dei comuni che si trovavano nel cratere dell'Aquila del terremoto precedente e nel cratere attuale. Succede per esempio per una serie di comuni dell'Umbria. Il tutto con ordinanze che si sovrappongono ad altre ordinanze che impediscono spesso ai professionisti di capirne qualcosa. Paolo Vinti, architetto, presidente dell'Ordine degli Architetti di Perugia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, ho riassunto male i problemi che state vivendo? No, ha riassunto perfettamente la situazione, che è assolutamente di una grande gravità e con una tempistica che a questo punto diventa veramente preoccupante, poiché rischiamo di ritrovarci nel prossimo autunno e inverno ancora alle prese con le macerie. Casette che non arrivano, naturalmente, e poi mi sembra di aver capito, Vinti, una grande confusione tra prime, seconde case, terze case e voi stessi, così come le amministrazioni che non sapete come muovervi. No, dunque, guardi, la questione normativa è in continua evoluzione. Ci sono state in questi mesi 28 ordinanze e 3 leggi speciali sulla ricostruzione. E continuano ad essere previste e uscite di nuove ordinanze che aggiungono, perfezionano, sostituiscono, modificano magari paragrafi o termini di una precedente ordinanza. Il tutto rende assolutamente quasi illeggibile la situazione da un punto di vista normativo. Quindi siamo costretti a fare continuamente richieste di FAQ, di quesiti alla Regione Umbria, per quanto ci riguarda, e al commissario, per ricevere risposte in tempi che sono ovviamente necessari, tempi necessari, ma insomma, quindi non c'è, nonostante le 28 ordinanze, non c'è ancora chiarezza su ciò che si dovrà fare. Questo sostanzialmente paralizza la pubblica amministrazione, perché poi gli stessi funzionari della pubblica amministrazione immagino che non sappiano dove guardare, in quali, no, qual è l'ordinanza nello specifico che riguarda il quesito che ci state sottoponendo, e poi paralizza voi, evidentemente. Esattamente, no? C'è anche un problema di interpretazione della lingua italiana in qualche caso. Quindi, la scadenza, facciamo un esempio, la scadenza del 31 luglio che un'ordinanza poneva per la presentazione delle procedure, delle pratiche di danno lieve, così come sì, definito, scritta in un testo può essere interpretata in due modi completamente diversi. Finalmente sembra... Cioè? Mi faccia capire, giusto per capire, come poteva essere interpretata questa cosa? Poteva essere interpretata con una scadenza perentoria del 31 luglio per tutte le richieste di procedure per danni lievi, sì, di, o soltanto per quelle per i quali erano iniziati i lavori precedentemente. Per cui... cioè si consentiva in un certo senso a chi avesse iniziato i lavori di presentare il progetto entro il 31 luglio. Allora, questa è l'interpretazione che viene data ora come definitiva, ma fino a pochi giorni fa c'era un'altra interpretazione. L'interpretazione era che tutte le procedure, le pratiche dovessero avere quella scadenza. Secondo lei, al di là, come dire, della di quelle che sono le ordinanze che vengono emanate. Ordinanze che vengono emanate chiaramente da un vertice che è sostanzialmente politico. C'è una carenza di vertice politico, di capacità di gestione da questo punto di vista o no? A mio giudizio il commissario avrebbe dovuto svolgere un ruolo commissariale molto determinato, decide assolutamente, come ha detto lei nella sua presentazione. Intanto non è possibile che a ogni terremoto ci si comporti in modi diversi a seconda di chi gestisce l'operazione del terremoto. Bisogna stabilire dei criteri, devono essere individuati dei criteri generali, stabiliti una volta per tutte, per cui ad ogni evento sismico ci si comporta nella stessa maniera e non ci dovrebbero essere tutte queste farraginosità e complessità. Questa volta si è voluto, a differenza del terremoto dell'Aquila e quello dell'Umbria prima, si è voluto dare l'impressione, intanto l'impressione, io ritengo, di voler realizzare tutti gli interventi, qualunque essi siano, cioè sia prime case, seconde case, attività produttive, tutte potessero partire nello stesso tempo. Cosa assolutamente impossibile, certo, per priorità. Cosa impossibile per varie ragioni, sì, perché non esistono progettisti in grado di svolgere tutte queste pratiche. Certo. non esiste una pubblica amministrazione che possa approvare una mole di lavoro di questo tipo, e probabilmente non esiste nemmeno una quantità di imprese necessaria a fare tutti questi lavori, perché poi spesso sono anche lavori piccoli. Allora, Paolo Vinti, magari torniamo a risentirla nelle prossime settimane, e lei, così come sentiremo altre persone dal territorio, architetto e presidente dell'Ordine degli Architetti di Perugia, grazie per essere stato con noi. Torneremo a parlare di terremoto. Sicuramente vedo molti ascoltatori che chiedono a proposito delle casette. Le casette è un'altra questione, quella riguarda più la pubblica amministrazione. Abbiamo voluto sentire i professionisti perché sono quelli che quotidianamente si confrontano con questi problemi. Magari nei prossimi giorni andremo a sentire anche qualche sindaco. Gino Ioppolo, sindaco di Caltagirone, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie, un saluto a tutti. Dalla Sicilia, dove ci sono calcolati, probabilmente per difetto, 60.000 randagi, la regione messa peggio in Italia, e dove il suo assessore alla cultura si è fatto beccare da una telecamera, tra l'altro c'era proprio scritto area videosorvegliata, quindi come dire, poteva anche notarlo, mentre abbandonava quattro cuccioli, il suo assessore alla cultura. Cosa ci dice, sindaco? Beh, il fatto che ci sia stato il cartello e che l'assessore alla cultura non se ne è dato cura probabilmente significa che non li che ha non voluti. Sa leggere, no, mi scusi, no, no, mi scusi la battuta, questo, mi scusi la battuta, no, è una battuta, una battuta degna di miglior causa, lei sì, questo lo comprenderà, ma anche sì, lei, ma sì, che guarda, probabilmente si scherza non ha un po'. Voluto nascondersi, ha soltanto agito in maniera sconsiderata, superficiale, forse in un momento di panico, di preoccupazione per quello che aveva trovato davanti l'uscio di casa propria, e cioè questo scatolo contenente i cuccioli, dimenticando di essere un amministratore comunale che quindi deve essere esempio per i propri concittadini e non subirne l'esempio, e in maniera del tutto personale si è abbandonato a questo gesto che ovviamente io non condivido. Certamente, perché tra l'altro voi avete fatto una serie di iniziative nei mesi scorsi, ne ho trovato traccia su internet, l'ultima in marzo, proprio contro il randagismo, perché appunto in Sicilia è un problema, chiunque ci vada, oltre i siciliani lo sanno benissimo, ma chiunque ci vada anche in vacanza lo vede, cioè è una cosa visibile sulle strade. Noi non soltanto come amministrazione comunale abbiamo fatto tanto, ma intendiamo continuare a farlo anche con la realizzazione di appositi spazi presso i quali le associazioni ambientali e animalistiche possano contribuire con la loro attività anche al mantenimento dei cani randagi, che come lei saprà costa anche un po' di quattrini alle pubbliche amministrazioni, e nel pieno rispetto dei diritti degli animali, così come noi abbiamo scritto anche nel nostro programma elettorale, che non abbiamo lasciato carta scritta, ma che stiamo realizzando giorno dopo giorno, con sì, la previsione persino nel nuovo piano regolatore generale che ci stiamo approntando ad approvare, apprestando sì, ad approvare, di un luogo per gli animali di affezione morti. Sì, allora l'assessore non sarà più assessore, voglio sperare, a questo punto. L'assessore ha rimesso il suo mandato nelle mie mani e io ovviamente deciderò il da farsi. Quindi ha intenzione, potrebbe anche tenerlo come assessore? Io questo non lo escludo e non lo affermo in questo momento, anche perché voglio capire esattamente bene i fatti, voglio capire il perché di questa telecamera e voglio capire da lui, avendolo sentito solo pochi minuti ieri mattina, cosa lo ha spinto a questo gesto. Ma perché quindi, lei dice che non ha voluto nascondere? Perché lei prima mi ha detto, probabilmente l'assessore non... Per una ragione molto semplice, chi trova quattro cuccioli davanti l'uscio della propria abitazione, che è in piena città, che non è attrezzata per avere la possibilità di mantenere quei cuccioli, di poterli accudire, e li deposita lungo una strada ove è noto vi sono degli animalisti, delle ville con i cancelli aperti, probabilmente è stato uno sprovveduto gesto di salvataggio di quei cuccioli, che peraltro erano stati già abbandonati davanti la propria casa. I fatti vanno sempre letti nella loro oggettività. Certo, sì, Questo... L'oggettività sono quelle immagini di telecamera non al è, momento, non sindaco. È attenuante, no? Non è un attenuante per l'amministratore pubblico. Va bene, mi permetto, sindaco, di esprimere le mie perplessità su questa sua lettura dei fatti, però naturalmente andremo a vedere perché appunto i fatti, poi ci sono i fatti, poi ci sono le intenzioni e via dicendo. Va bene, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, riprendiamo il nostro giro per l'Italia e sì, andiamo a sentire quali sono le novità sul fronte di Igor, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, oppure c'è la nostra pagina Facebook dalla quale stiamo andando in diretta, così come dalla pagina Facebook di Radio 24, i nostri titoli. Il caso Consip al vaglio del Parlamento, le mozioni contro il governo e la maggioranza è a rischio. Dal 2014 tagli di spesa per 30 miliardi di euro, secondo il commissario Gutgeld. Suicida in carcere Marco Prato, accusato di un omicidio in un festino a Roma di Luca Varani. Terremoto, interventi e casette in forte ritardo da rimuovere. Più del 90% delle macerie. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per parlare, prima di andare a toccare ancora la vicenda di Igor, di una sentenza che viene raccontata oggi da Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, che riguarda una donna che è rimasta incinta nonostante credesse di aver subito in ospedale il concordato intervento di sterilizzazione. Qual è la caratteristica di questa condanna, di questa sentenza, che è stato riconosciuto un principio, ossia la violazione della libertà di procreazione. Siamo in linea con Mauro Intagliata, che è il legale della signora che ha ottenuto il risarcimento all'ospedale. Buongiorno Intagliata, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. È veramente il primo caso? Sì, è il primo caso. Il Tribunale di Cagliari si è pronunciato per la prima volta su una vicenda che non è stata mai presa in considerazione in altre aule di giustizia, e quindi sì, sicuramente i principi e le motivazioni di questa sentenza saranno oggetto di importanti studi e verifiche da parte degli operatori del diritto. Ci dice sulla base di quale principio, di quali motivazioni il tribunale ha scelto, ha deciso che è stata violata la libertà di procreazione? Allora, per arrivare al principio il giudice ha dovuto ovviamente prendere in esame il fatto, e il fatto si è verificato per una interruzione di gravidanza indesiderata, non di nascita indesiderata, ma di interruzione di gravidanza indesiderata, dal momento che una donna in una realtà regionale sarda vicino alla provincia di Cagliari alcuni anni fa aveva deciso, una volta subito il parto cesareo del secondo figlio, di interrompere ogni possibile futura gravidanza chiedendo la sterilizzazione e quindi la chiusura delle tube, onde poter liberamente, condividendo questa idea con il proprio marito, di avere una vita sessuale senza più figli. Sì. E in realtà l'ospedale, anche se ha tentato maldestramente di dimostrare il contrario in sede giudiziaria, purtroppo si sono dimenticati i medici di effettuare al momento del secondo parto anche la sterilizzazione tubarica, e quindi la donna, una volta partorito il secondo figlio con un parto cesareo, tornata a casa, ha vissuto la propria vita sessuale liberamente finché non si è resa conto, con un massimo stupore, di essere rimasta nuovamente incinta. E quindi a questo punto la nostra azione giudiziale, visto che l'ASL, l'azienda sanitaria, si è sempre rifiutata di riconoscere un danno in conseguenza di questo errore, ci ha visto protagonisti di una lunga, serrata battaglia giudiziaria per dimostrare che a questa donna era stato violato, quindi ha subito un danno legato ad una impossibilità di esercitare il diritto ad una procreazione consapevole e libera, così come viene tutelato questo principio dalla Costituzione, perché è stata costretta a dover compiere un'interruzione di gravidanza indesiderata. Chiarissimo, la ringrazio. Grazie all'avvocato Mauro Intagliata per essere stato con noi. E no, lo dico agli ascoltatori che si scrivono via WhatsApp. Mi sembra francamente inutile commentare le dichiarazioni del sindaco di Caltagirone. No, le avete sentite voi stessi. Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Ciao Daniele, bentornato. Sì, ciao a tutti, buongiorno. Allora, qua ci scrivono via WhatsApp se Igor ha prenotato mare o montagna quest'anno, ma insomma, diciamo, fuori di battuta, noi continuiamo a parlarne e lo dico agli ascoltatori, come sempre, perché ci sembra una vicenda veramente particolare, insomma, 2 mesi di ricerche in una area tutto sommato piuttosto ristretta rispetto a quella che è la dimensione del territorio italiano e 2 mesi che sono stati completamente infruttuosi e smobilitazione in corso. Quali sono le ultime, Daniele? Le ultime sono molto poche, c'è quasi un ritorno alla normalità dell'Argentano, pochissime le pattuglie proprio visivamente che si possono intercettare in tutta la zona. Quello che dicevamo nei giorni scorsi è che ovviamente adesso le ricerche sono scemate e tutta l'attività diventa un'attività di intelligence, come si fa per tutti i latitanti di questo mondo. Sì. Bisogna cercare un contatto, a cercare quel qualcosa che ti porti alla persona. Questo è quello che stanno cercando. Nelle ore scorse si era diffusa, no, l'ipotesi, c'è un basista o qualcosa di questo genere, no? Ma mi sembra che anche Sì, questa era un'ipotesi iniziale, proprio addirittura di 2 mesi fa, proprio appena dopo l'omicidio di Budrio, del barista di Budrio. È una pista anche questa, però insomma, così, fonti che avevamo interpellato noi e i nostri colleghi a Bologna dicevano che era una delle tante, non è che fosse, diciamo così, molto verosimile, diciamo, questa situazione. Grazie come sempre e come ogni, di solito lunedì e venerdì, oggi abbiamo fatto martedì, a Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara, e se volete informazioni su Igor, il luogo più aggiornato nel quale potete trovarlo è anche il sito del quotidiano per il quale lavora Daniele. Ora il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.